fiabe del buon costume. We'll start in a few minutes. Thank you. Thank you. Actually, before starting, Valerio should introduce the show, but I ain't seen Valerio. So we could call him all together. What do you say? Yeah. Now count till three, and then you go screaming his name. Voi, due, tre. Giorgio Romero non avrebbe saputo chiedere di meglio. I'm sure you can do better, all right? So. Voi, due, tre. Maybe Valerio wants someone which introduces him before being here the introducer. Martina, do you want to introduce your boyfriend? If it's still your boyfriend, yes, he is. Vabbè, richiamiamolo ancora. Uno, due, tre. Valerio! Yeah! Sono qua. Tocca a me? Vai. Al buio? Vabbè. Costa le porca figa. Eccomi. Buonasera a tutti, benvenuti all'Exalge! Per la serata Brutte Persone presenta Musica per Bambini, Manuel Bongiorni, il primo spettacolo tecnicamente qualitativo che Brutte Persone vi porterà e anche l'ultimo. Ci vergogniamo un po' di mettere il nostro nome su questa serata, però sono molto fiero di aver portato qui un collega piacentino, sottolineiamo, piacentino! Grande l'ostia! Un genio! Yeah. Un folle! Io tiro su così te poi fai un po' più schifo rispetto a quello che dico, no? Sì, e sì. Un maestro della comicità, della musica, della canzone! Signore e signori, l'ho detto anche prima, Manuel Bongiorni, in arte, Musica per Bambini! Cosa molto importante, a un certo punto ci sarà una pausa, voi rimanete in zona, cioè bevete, drogatevi, fatevi le vostre cose, però poi tornate perché ci sarà un altro segmento. E io vi lascerei con, che abbiamo detto, Manuel Bongiorni, yeah! Musica per Bambini! Valeva la pena aspettare, dai. Piuttosto che essere portato dal vento dove donne eleganti ti guardano con ripugnanza. Ho in un cestino tratta di volantini, molti ingombranti, ma scritti solo in basso a destra. Piuttosto che ora, piuttosto che nel caso allora. Vivere nel tuo naso era meglio vivere nel tuo naso. Piuttosto che per nell'indifferenziata vita, subendo il troncio per questo del tuo fazzoletto, che è condannato a starmi a terra in eterno e sta perdendo l'odore della menta fredda. Piuttosto che ora, piuttosto che nel caso allora. Vivere nel tuo naso era meglio, come on! Vivere nel tuo naso era caldo, anche l'inferno. Vivere nel tuo naso era bello, ero yellow. Vivo, come on! Ero schifo, ero schifo. Vi guardavo da una narice, a volte uscivo. E tu che ti sei liberato da me dal male, respiro. respiri meglio quest'aria che poi non ti piace. E ti lamenti che c'è puzza di cose, perché non vieni invece a riportarmi a casa? Facciamo ora, facciamo che ti intaso, fammi sarà meglio, sarà meglio. Sarà caldo anche l'inverno. Thank you. C'era una volta. C'era una volta. C'era una. Dai, su. Non è difficile. C'era una volta un no. E poi dai, hai già mangiato. C'era una volta un re. No, è già da un po' che non ce l'avete nel vostro stato. C'è qualcuno nostalgico, ma non dovrebbe esserci per tanto tempo. C'era una volta un brava, un orco, una terribile creatura dimenticata da Dio, dagli uomini e da me nella frase prima. Egli era orco da generazioni, pronipote di un orco bisnonno, figlio di un orco padre e nipote di un pluripronunciato orco zio. Egli viveva in una stamberga, in un antico tuburio, in una polverosa baracca dimenticata da Dio, dagli uomini e dal bonus facciate. Le fiabe della buon costume. Dai maschio, cosa aspetti? Parla all'orco. No, c'è la parità, parlaci tu. Non c'è ancora, siamo nel 1930. Ma non sarà mansplaining? Ma no, devi parlare con un orco, mica con una femmina. Ah, ho capito, in effetti dovrebbe essere più facile. Lo sospettavo, state spiandomi dalla finestra da 3 giorni. Tu spaventi i nostri bambini. No, io in realtà li mangio, se li spaventassi scapperebbero. E allora cambia dieta o dovremmo bruciarti la baracca. Ma vedi, sarebbe una scelta ipocrita. Hai presente gli integratori per orchi vegani? Sì. Sono tutti a base di Bimbo. Ah, e la vitamina B? B di Bimbo, no? Ah, e le barrette al cacao? Kinder. In effetti dovevo arrivarci da solo, allora brucerai. Ma brucerà anche la vostra casa e anche il bosco dietro, ci saranno proteste. Sì, ma i capelloni non sono ancora attendibili in materia ambientale, figuriamoci le bambine Smoldic Energy. Forse c'è una soluzione. Voi mi portate un bimbo al giorno e io in cambio non vi rapisco gli altri. Sarebbe come dire dacci un po' di soldi ogni giorno così non ti rapiniamo. Beh, appunto, alle banche glieli date, no? Forse ha ragione, caro. Mi sembra un orco onesto. Sono stanca di avere la porta sfondata. Io di ripararla ogni giorno. Ma tu sei pastore della nostra comunità. Senti un po' questa idea. Dottrina. Una specie di messa, ma la facciamo tutti i giorni e ci facciamo venire solo i bambini. E a fine giornata ne restituiamo in meno. Non se ne accorgeranno. Sono comunque tanti quando entrano e tanti quando escono. Nessuno controlla. Con le banche funziona. Ma come facciamo? Uno schiavo li porterà in bicicletta all'interno di un cubo legato alle sue spalle. Ah, perfetto. E come lo chiamiamo? Just Eat, one of our kids and leave the others. Ah, troppo lungo. Just Eat. Molto meglio. Mi sono permesso, per suggellare il patto, di farvi un piccolo ritratto. Cosa? Un ritratto? Noi siamo anglosassoni. Tocca pure i nostri bambini, ma giù le mani dalle nostre privacy. Brucia, mostro! Thank you. Thank you. Se non avessi braccia, avrei comunque mani. Farei invidia agli altri esseri umani. Se non avessi un cuore, avrei un processore e su di me un interruttore. Se non avessi bocca, avrei l'aspetto strano. Terrei i denti tutti in una mano. Mi piacerebbe molto se non avessi un volto. Non lo potrei lasciare incolto. Senza denti, senza mani, farei come gli umani. Ma senza un'anima son l'orco. Se non avessi piedi, avrei le scarpe nuove. Camminerei sull'acqua quando piove. Se non avessi un cuore, avrei un processore e su di me un interruttore. Se non avessi ossa, sarei in una cassa. Eviterei la ressa. Senza denti, senza mani, farei come gli umani. Senza tutto, senza niente, sarei più intelligente. Ma senza un'anima son l'orco. Ehi! Cercate rogne? Abbiamo visto la slitta parcheggiata. E ci chiedevamo se come l'orco che abitava prima in quel... Body shaming. Come l'inquilino che abitava prima in questa baracca, anche voi foste interessato ai nostri bambini. Ma siete matti? Io ci lavoro coi bambini. Che tipo di lavoro sarebbe? Consegna di giocattoli, l'idea è buona, un secolo di sedentarietà, crisi sociale, poi una pandemia e quando la mia barba arriverà fino a qua, tutti vorranno farsi portare le cose a casa. Se noi assieme ai bambini mettessimo anche tutti quanti i loro giocattoli? E in cambio? In cambio dovresti vestirti di verde per promozionare la mia bevanda alla cola. No. Ma tu puoi tingere le lattine di rosso. Affare fatto. Come lo chiamiamo? Amazon, sempre io, quello dei bimbi. Troppo lungo. Amazon. Meglio. Morale. Chi è causa del surround? Pianga a sé stereo. Metti che sei nato con 11 dita palmate su 20 e ti prendono in giro. Ecco che il tuo nome, che poi nel mio caso era Culo Cucchiotti, diventa Palmiro. E ti senti male, non puoi farci niente se non prendere un trattore, andare sulla gente. Palmiro è vestito strano. Palmiro, Palmiro non è tutto umano, signor Culo Cucchiotti. Le devo ripetere che questo è un processo. Oh, la chiamo Palmiro. E si dà anche il caso che uno di quelli là sotto il trattore era mio cugino. Come la mettiamo? Io non lo sapevo, ma hai imparato la lezione. Prima di andare su qualcuno verificherò non sia cugino di nessuno. Palmiro è vestito strano. Palmiro, Palmiro, non è tutto umano. Ah! sì, vabbè, può andare, ma ancora una cosa, perché veste così strano? Volevo l'attenzione, si posasse sul vestito e mica sulla mano. Palmiro, il vestito strano. Palmiro, oh, yeah, na, na, na. C'erano mille passi che separavano l'antica baita dall'antico monastero. E c'erano altri mille passi che separavano l'antica baita dalla cima del Monte Bianchino. E c'erano altri mille passi che separavano l'antica baita dall'antica baita stessa, se li facevi storti, brutto imbarriago. Le fiabe della buon costume. Guarda che devo spalare neve! Ma padre, io refrigero! Ma guarda te che questa ha bisogno di mutande termiche! E il tuo nonno Carogno che aveva un maione solo! E se l'era fatto rasando a pecora! E poi lo dava alla pecora! Che c'aveva più freddo di orso! Ma io ho bisogno di riposo! Ma va là, il tuo nonno Carogno con un occhio dormiva e con l'altro faceva l'occhiolina alla nonna, Dio talpa. Forse mi sto aggravando. Il tuo nonno Carogno quando si aggravava stava meglio. Mi sa che il riposo che mi attende è quello eterno. Ma Dio marmoto, un goto di grappa e passa tutto, no? Non posso, ho fatto voto di astemia. Astemia? Sì. Allora se è vero che te stai male. È stato padre Sbrunza a impormelo. Forse lui potrebbe aiutarmi. E tu nonno Carogno con una bestemmia ne faceva scappare 10 de frati. E te ne vuoi portare uno qua a baita? È meglio che vada io. Ma riceveva stamattina. Allora parti ieri, Dio gufo. Non posso, le mie scarpe sono sozze e matite. Ma voilà, il nonno Carogno per legarsi i scarponi ciappava i bisci e dai rami. Dio poiana. E allora farò come lui ed andrò. Mi sembra già di sentire la voce di padre Sbruzzo. Dunque, giovanetto Blio, come va con il padre? Egli mi vuole tanto bene, ma gli voglio tanto bene anch'io. Peccate! Come peccate? Oh, peccato, l'increncio vuol dire benissimo. Ora dimmi 33. 30 e trino. Oh, perfetto. Meno male. Perfetto, l'increncio vuol dire malattia. Molto gravissima. Era contraria. Potresti attaccarla tu, babbo. Ma perché ridi? L'increncio vuol dire oh, oh, oh. Mi spiace. Beh, capisco. Ti curerò, ma è medicina che tu devi portarmi. È molto difficile da procurarsi. Schnelle. Neve. Ah, ma qua fuori ce n'è tantissima. Ne, non questa. Quella di alta montagna, molto più fresca. Ci vuole quella di Monte Bianchino. Ma nessuno è mai tornato da lì. Esatto, nessuno è mai tornato a dirci che è pericoloso. Quindi non lo è. Sì, ma hai detto tu che era difficile. Ah sì? Difficile in crenzi vuol dire che tanto lo fai te. E allora lo farò, sì, per rendermi io padre orgoglioso. Te sei matto a salire lassù? Il povero nonno Carogno c'è morto sul Monte Bianchin. Pria che io nascessi? Anche pria che nascessi io, Dio merlo. Là che sta il pupazzo cattivo del Monte Bianchin. Ma padre Sbruz dice che sono solo leggende. A chi l'avrebbe messo in giro? Il pupazzo malvagio. Ma quello è una leggenda. Meno male. E allora posso partire? Ma volte vai a andare sul monte che non sa neanche salire sul tetto, Dio trota. E il nonno Carogno ci saliva? Ci abitava. Scendeva soltanto per ciappare in corsa e saltare più in alto. Dio corvo. Farò come il nonno ed andrò fino sulla cima. E se non mi uccideranno le intemperie, allora vorrà dire... No, ti ucciderò io! Il pupazzo malvagio! Idiota, sono il pupazzo cattivo! Ah, e quello malvagio? Ma non esiste, come fai a credere a certe baggianate? Hai ragione, prendo un po' di neve e vado! Ma figurati, arrivederci, è stato... Ehi, aspetta un attimo, io ti devo uccidere! Ma perché? Perché hai scoperto il mio segreto, cioè che io sono il nonno Carogno e me ne sto qui perché nevica vino! È vero! E il mio corpo l'assorbe per osmosi trasformandovi così. Ah, e la carota? Beh, quello è un gioco di parole col mio nome, mi piaceva. No, è bruttissimo. Prendo un po' di neve e vado, eh? Te l'ha detto frate Sbrunz, vero? Il vecchio trucco della malattia. Non l'avrai mai. Preparati a morire. Il pupazzo malvagio! Non sono malvagio, è che l'alcol mi rende così. Ed essendo fatto di vino non sono mai sobrio. Scusa, non perché mio nonno, ma il pupazzo cattivo aveva una spiegazione molto più verosimile, eh. Cosa c'è di scientifico nella tua? Sono chiaramente un sogno. Padre, sono morto! Ma che morto? Te sei guarito? Ah, davvero? Cosa c'avevo? Ma parlai strano. Davvero? Parevi scemo, Dio gufo. E ti ha mai dato il vin? Ti ha detto che con un goto passava tutto. Ah, ti ha mai messo una suppa? No, ti ho fatto ingonare, eh. E non ci stava, un goto sono 2 litri. Dio cervo. Ben, Dio starne! Dio quaglia! Dio stambecco! Dio cervo! Bravo! Grazie! Adesso va a spalare la neve! Ah! Thank you very much, this is entitled Andy Claus Quies Mario! Pellegrino, e chi ti manda sul tuo cammino? Ma avete voi mandato ad ora dal futuro? Parola d'ordine, culo maturo. Ah, benvenuto chi ti ha dato i giusti venti. Voi siete stato tra 2 decenni. Lasciate che vi spiego, mio re. Tutti viaggiamo nel tempo, ma io però al contrario. Come on. Mario. Ribalto il calendario, sono Mario. Antiorario. Sono Mario. Antiorario. Che cosa hai detto tra 20 anni, pellegrino? Ho rivelato il vostro destino. Arriverà rivoluzione Italia testa. Dimenticate sarà le vostre gesta. Nel vostro aspetto non è rimarrà di segno. Il figlio vostro supera il regno. Si canterà anche con una brutta voce. Non sarà umano chi quasi soldi senza testa e croci il cibo. Si scoprirà che se è buono muoce tom. Sarà il mondo e girerà veloce. Ed una lacrimuccia è scesa dal vostro viso. E poi che ho fatto? Vi siete ucciso. Ah, soltanto che non capisco perché ho ucciso me e non te. Io vi servivo ben più da vivo per leggere questo messaggio testè. Il pargolo tuo lascialo a lei, quella suora dal ventre buono. Lo crescerà come figlio del cielo e non come erede del trono. Giocati il 4 in locande al torneo, punta tutto sui due longobardi. Al tuo stanco bracco dai l'ultimo osso e carezzalo ora. Domani è tardi, a mezzanotte svuotate un altro e domani si viaggia nel tempo. Ma io però al contrario. Come on everybody! Mario. Ribalterò il lunario. Mario. È stato necessario. Sono Mario. Antiorario. Sono Mario, antiorario. Pensa che è gran sedere se anziché il postino il corriere bussasse Mario, antiorario. al te passato potresti mandare in forma canzone, una raccomandazione, un cambio di direzione tramite Mario. Anti-orario. Pensa che è bello potersi fidare e contare su uno più saggio, cioè tu che mandi un messaggio omaggio da un futuro maggio, maggio, maggio, maggio, che vantaggio. Maggio, maggio. Ho fatto male ad ascoltarti Pellegrino, hai solamente finito il vino mio. Thank you. Ho messo una moneta sul ciglio della strada, col filo la tiravo e la seguiva un tizio. Dopo una botta in testa ci ho preso il borsellino, c'erano tre monete e io ci ho messo i fili. C'erano tre monete sul ciglio della strada. Finalmente ho fatto niente. Uero Rico. Ho assunto un aiutante per dare botte in testa, un altro tiri fili e un terzo curi social. Ho aperto una filiale in altre quattro strade, tantissime monete per un'idea vincente. Mi sono consolidato ed ora do lezioni. Finalmente ho fatto niente. Uero Rico. E poi mi hanno arrestato perché quello dei social aveva scritto ebreo. Ebbene sì, quest'ultima fiaba invece è per voi, miei giovani piccoli amici, e ha per titolo La Stella Commessa. In realtà le fiabe sono due, una è una fiaba bellissima di una stella che si chiamava Commessa e una invece una fiaba bruttissima di una commessa che si chiamava Stella. Ecco, io ti racconterò proprio questa. Beh, vi dicevo, la stella... La commessa viveva, anzi lavorava in un negozio dove faceva tantissimi pacchetti, faceva un pacchetto a forma di fungo e c'era dentro un fungo, poi faceva un pacchetto a forma di fiore e c'era dentro un fiore, poi la stella... il film in bianco e nero dall'altra parte, stupido! Poi faceva un pacchetto a forma di cappello e c'era dentro... un elefante che era stato mangiato da un boa, proprio come nel Piccolo Principe. Poi il Piccolo Principe la denunciò per plagio, dimostrandosi il solito stronzo. Così ella dovette giurare che non avrebbe mai più fatto dei pacchetti difformi nel contenuto e nella forma. Sembrava che il peggio fosse già stato toccato quando a un certo punto... bussò alla sua finestra una vecchia dall'aria sinistra. Stella Commessa la vide e disse: puoi chiudere un po' quell'aria sinistra? Non vorrei che mi venisse un'influenza come del 2019. La vecchia allora rispose: aprendo anche l'aria destra. Le fiabe della buon costume. Yeah. Le fiabe della buon costume. Via dalla mia finestra! Hai fatto anche cadere il bicchiere! Impacchettami questi regali! Non sono stati comprati qui! Se per quello non sono stati comprati affatto! Mettimeli in una calza! Cosa sei, la Befana? Beh, è l'unico filtro che ho trovato. Non posso fare pacchetti difformi dal contenuto. Fa come ti ho detto. Se no consegno 1000 regali nelle calze, la mia attività fallirà! Sì, ma se il pacchetto è una calza, il contenuto deve avere la stessa forma che so un pie... Oh! È stata una bellissima idea quella di uscire a tagliare i piedi per metterli nelle due calze! Così i nostri lavori sono salvi! Tanto siamo sotto le feste! Daranno la colpa a qualche estremista religioso? Ci sono degli attivisti che bloccano il traffico! Digli che stiamo tagliando i piedi ai calciatori per boicottare i mondiali! Ma questa è una bellissima idea! No, aspetta, ne ho una migliore! Tagliamogli i piedi! Ci sono dei feticisti che vogliono le foto dei piedi tagliati! Digli che dovranno pagare! Ma questa è un'ottima idea! No, aspetta, ne ho una migliore! Tagliamogli i piedi! Ci sono i piedi piatti! Vanno bene anche quelli! Tagliamoli! Non nel senso che c'è proprio la polizia! Parlaci tu, questa è la tua zona! Salute, agente! Sono la stella commessa, vi ricordate? Stavamo giusto ritirando da una... Oh! E c'è qualche problema? Beh, dipende. Due fanciulle da sole, di notte, graziose. Non mi sembra prudente. Ma stavamo giusto rincasando da una... sgambata. D'accordo. Ma... Sì? Per me, due di taglia 41. D'accordo? Se non ci si aiuta tra noi criminali. Ora sì che al corso di ballo potrò indossare i mocassini di Fred Astaire. Oh, auguri. Auguri. Auguri. Siete ben concorde, vero fanciulla? Eh sì, meno parole ci sono e meno ne devi capire. Pertanto, cotesta te la dedico. Qual è il nome tuo, bella fanciulla? Nicoletta, ti hanno dato anche un nome lungo. Però ti chiamano Nico, giusto? Ebbene, cotesta invece... ha per titolo Canti da cantare con il naso ed è un brano che potete tutti quanti cantare assieme. Basta anche tu, Nicoletta. Basta fare Canti da cantare con il naso. Come on. Beh, non proprio tutti. Come l'antico folklore prevede che ogni fantullo rimanga su un piede. Canti contento, canti persuaso, canti da cantare con il naso. Questa è l'orchestra che in tempi lontani batteva piedi e poggiava su mani. Poi iniziammo quasi per caso, canti da cantare con il naso. Come on. E ho detto il naso. Tu che canti con lingua mostrata non potrà più mostrarsene grata. Tu che lasci che scorga i tuoi denti ti dovrai ingoiare ridenti nei canti che non canti con il naso. Questa bacchetta con cui do lezioni batte d'aiuto da generazioni e sempre la uso quando rincaso nei canti. E a chi mi chiede conforto e pazienza. Dono sorrisi e dispenso indulgenza. Dopo lo riempio come un bel vaso di colpi di bacchetta sul muso. E allora sì che l'orchestra va lieta, tutti rispettano l'asta che vieta d'aprire bocca, non è più il caso. Nei canti da cantare con il naso, nei canti. Ho detto il naso, tu che canti con lingua mostrata, non potrai più mostrarsene grata. Tu quando ciondolerà dalla bocca, è la sorte che tocca chi sbaglia nei canti che non canti con il naso. Basta! Quel palo è troppo grosso! Non entrerà mai! I pali non sono tutti uguali. Affidati ai professionisti. Scegli PayPalo, la nuova app dei frati appisti per impalare divertendoti. E direttamente a casa tua. Nessuno nasce impalato. Ci pensa PayPalo. Coda in mano e farlo roteare come fosse un mestolone da polenta, far intravedere il topo, poi nasconderli, intascarlo, digerirlo sottraendogli di letto. Detto fatto, sono cose da non fare al gatto. Ho il gatto ti graffia, sono cose da non fare al gatto. Ho il gatto ti graffia e dice mia, mia. Oh, come on! Fargli rinunciare al cibo e mettersi a mangiare, derivati del maiale pesce fritto, abbaiare come un cane o miagolare come fanno i bici quando sono in amore. Vedo la luna tra loro, vengono in contatto, tutte cose da non fare al gatto. A basso riverbero, cose da non fare al gatto. Messaggi trafonici, cose da non fare al gatto. Ho il gatto di graffia e dice mia. Ok everybody, hear me. Avvicinarlo senza tatto è un'altra cosa da non fare al gatto. Like fare gli dispetti buffi, mettersi la mano sulle zampe, il dito nell'orecchio, prenderlo e spingerlo, poi sbatterlo, ruffalo, fargli pizzichi sulle dita, soffiare dentro il muso nell'orecchio fino a farlo diventare matto. Tutte cose da non fare al gatto. Ho il gatto di graffia, sono cose da non fare al gatto. Superstar, that is what you are. Coming from afar, reaching for the stars. Meow, come on. Meow. Meow. Avvicinarlo senza tatto è un'altra cosa da fare al gatto. Oh, oh. Thank you very much. Thunder, l'app discreta di incontri per terratondisti. Non ti piace piatta? Vieni su Thunder. Nessuno può giudicare le tue perversioni eretiche su Thunder. Che belle curve! Cotesto brano invece, sim per un gran bel sonetto, ha per titolo Uguale a Ugo. Ma non pensarla, così pronunziata dalla mia brutta bocca e dalla mia faccia irsuta, no? Pensala invece in bocca alla più bella fanciulla che tu abbia mai veduto, e che sempre ti ha schifato. Ma non perché tu sia male, ma che comunque non sarai mai uguale a Ugo. Presta la giacca, non la rivuole tu. quando mi presti la giacca. È uscito il sole perché non sei uguale a Ugo. Lui lo è perché non sei anche te. Tu quando mi porgi la rosa, pungi le dita. Lui quando mi porge la rosa, son già svestita. Perché non sei uguale a Ugo. Lui lo è perché non sei uguale a Ugo. Anche te. Everybody say. Perché non sei lui. Lo è perché non sei uguale a Ugo. Anche te. Tu quando mi porgi la mano ti si accalora. Lui quando mi porge la mano ne ha due ancora. Perché non sei lui. Lo è perché non sei anche te. Perché non sei, non lo so, forse perché lui non esiste, io invece no. Hybrid. Full hybrid. La forza dell'asino, l'energia del cavallo, in un unico veicolo. Mulo full hybrid. Tuo da 299 ducati al mese. Attenzione, animale sterile, non partorisce altri muli. Se non percosso, non si muove. Se qualcuno di voi ha una richiesta cotesto, è il momento corretto per richiederla. E bueno. Solo che magari bigliettaio necessita di un piccolo coretto. Something like campa l'uomo sopra il treno, crepa l'uomo sotto il treno, campa l'uomo sopra il treno, crepa l'uomo sotto il treno. Costa tanto, costa tutto, ti riposi, ti ritrovi, non lo fare bigliettaio. Tira il freno, bigliettaio, che il mio biglietto trovi strano, lo tieni alto nella mano, non dirmi che mi vuoi buttare giù dal treno. Bigliettaio, c'hai un difetto negli occhiali, non vedi numeri normali. O sono io che vedo male, o anche meno. Campa l'uomo, crepa l'uomo, costa tanto, costa tutto, ti riposi, ti ritrovi sotto il treno, non lo fare bigliettaio, tira il freno bigliettaio. Il mio biglietto non ti piace, so di che tu sei capace. Gettare un uomo a cuor sereno sotto il treno. Campa l'uomo, crepa l'uomo, costa tanto, costa tutto, ti riposi, ti ritrovi sotto il treno, non lo fare bigliettaio. Laughing Brow non la fan più, prima al Lidl compravi tu, al costo di una artigianale, tutto il bancale della Finbrau. Ora più non mi imbriao senza Finbrau. Va bene, dai, facciamo anche cotesta. Questa me l'hanno commissionata i sodali miei Blanco et Mammuzio, per rivalutare il nobile corpo degli alpini un po' caduto in disgrazia dopo i fatti romagnoli in cui si sono macchiati di qualche mano lunga. Et cotesta si chiama Rimini. Non lasciarmi così. Aspetta, però facciamo proprio alpino alpino. Non lasciarmi così, nudo in piazza Rimini, una femmina e cent'uomini, e te vorria portare dietro le tende, e te vorria ciavare, ma te t'offende. Andemo via da Rimini, qui che troppi etilometri, e te vorria portare sulla montagna, che nessuno te sente quando te lagna. Ah. Tutto il giorno in giro, e ora? E ora stai a casa, tutto il mese! Patriarcato, finora è andata bene. Questo pellegrino avea un problema. C'ho fame. Anche cotesto mercante avea un problema. Cos'è questo lezzo di cipolla marcia e gatto morto? Un gatto morto e una cipolla marcia! Per entrambi la soluzione siamo stati noi di Too Good To Goat. Mezza cipolla e un coniglio. Quante volte dei cibi non ancora mortali vengono gettati? Noi, grazie alla nostra rete di 18 pettegoli, riusciamo a mettere in contatto ogni derrata alimentare con ogni bocca affamata. Ma dopo prendere la mozzarella a Bologna ho mangiato un ottimo formaggio con i vermi. Too Good To Goat. Combatti lo spreco. Salva il pianeta. Fa qualcosa anche te, dai, su. Ascolta il canto del bidone, per tutti i cuori tristi è in arrivo una canzone, per far capire con verbo ad ora ignoto com'è beato chi ancor si sente vuoto. Sono pieno di gusci, sono pieno di uova, sono pieno di roba sia vecchia che nuova, pieno di borse, sono pieno di bucce, sono pieno di fiaschi, bottiglie, cannucce, sono pieno di bende, pieno di mali, sono pieno di sangue, di medicinali, pieno di plastica, di unte patate, sono pieno di tutta la roba che usate, sono pieno di pezzi di panine, di patate, di cicche, pezzi di tovaglie, tovaglioli di carta. Che bello il canto del bidone, per tutto ciò che getti è la sola soluzione. Apre il portello ma non vuole il tuo sacchetto. Sono pieno di carta, sono pieno di gomma, sono pieno di sporco su tutta la gamma, sono pieno di borse, sono pieno di bucce, sono pieno di fogli, battietti, cannucce, pieno di vermi, sono pieno di sali, sono pieno di quel che domani va male, tutto cibo scaduto, impregnato di sputo, pieno di ossa di grasso animale. Sono lurido e lercio, sono tutto imbrattato, però ora mi riempio di chi mi ha riempito. Ci sarà una manifestazione dove brucia il bidone solamente se... Sarò pieno di teste, sarò pieno di braccia, sarò pieno di chi mi donava robaccia, sarò pieno di mani, sarò pieno di piedi, sarò pieno di tutta la gente che vedi, sarò pieno di... sente che approfitta della sua pattugliera. Sono pieno di Gucci, sono pieno di uova, sono pieno di roba, sia vecchia che nuova. Sono pieno di borse, sono pieno di bucce, pieno di fiaschi, bottiglie e cannucce. Sono pieno di belle, sono pieno di mali, pieno di sangue e di medicinali. Sono pieno di plastica, di unte patate, sono pieno di tutta la roba che usate. Sono pieno di plastica, di stato del giornale di ieri. Notizie vecchie, pieno usate, tamponi negativi, tamponi positivi. Euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, area B. Polvere. Ecco testa est, l'ultima fiaba. In futuro, in un futuro non troppo lontano, succederà un evento spaventoso. Era questo. In un futuro ancora più remoto, il più grande degli eventi spaventosi sarà che il Natale perderà completamente il suo senso subissato da un overwhelming consumistico. Ma io vi posso dire dov'è. Per sole 9,99. Le fiabe della buon costume. Buonanotte eterna, mio signore. Chi sei? Sono Grumarg. Grumarg l'Eterno? No, sono Grumarg. Grumarg il Grande. Grumarg. Grumarg terzo piano? Grumarg l'Orrido. Come vanno gli affari? Grumarg. Grumarg. Male. Come male? Abbiamo dovuto chiudere molti padiglioni, molti gironi. Anche frustatoio? Anche il multisala torture. Quanti visitatori abbiamo? Uno, zero. E l'anno prima? Zero. E quello prima? Zero. E nella storia? Uno. E come ci è arrivato? Da una selva oscura. Bene, allora, ampliamo questa selva oscura. Non si può. Perché? È stata deforestata. Serviva legno in paradiso per produrre nuovi croci mobili. E il paradiso come va? Bene. Come bene? È normale, siamo sotto Natale. Natale. Potremmo farlo anche noi, mio signore. Sì, ma cosa si celebra a Natale? È la nascita di mobili. Queste feste importate non sono nella nostra tradizione. Sì, certo, ma piacciono ai demonini. Sì, ma è il giorno della nostra festa tradizionale di nessun santo. Sì, peccato, perché questo quanto noi avremmo potuto guadagnare semplicemente con un giorno di Natale. Tutto in un giorno. In più il Natale può durare anche 11 mesi. Comunque mi hai convinto. Grumarg. Grumarg, sì. Avremo il Natale all'inferno. Adorato. Scrivilo ovunque. Sul Necronomicon. Nessuno legge più quel libro e neanche gli altri. Vi infilerò in qualche pubblicità occulta. Buonanotte eterna, mio signore. Baratta la tua dignità in cambio di regali inutili. Adorabile, ma un po' meno spaventoso. I babbi Natali fanno il mandorlato balocco. Ma i miei schiavi stanno a forni molto più grandi. Vieni a vedere come bruciano. Adorabile, ma un po' meno ricattabili dall'associazione di categoria. Vacanze di Natale. Saltate sulle vostre moto. Venite con noi sulla neve. Venite con noi a... Natale all'inferno. Adorabile, ma un po' meno stereotipato. Dobbiamo fare vedere che siamo cambiati. Bene, allora accetterà di scambiare questi due fustini di un altro detersivo con la sua anima. Cavallo goloso. Vieni a soffrire nel girone dei golosi. Ti piace vincere facile? E tu in quello dei bari. Vado col primo che incontro. Buonasera. E tu in quello dei lussuriosi. Vai in vacanza con mamma e papà. Sono già qua dopo l'incidente con quel carcassone. Questo simbolone sulla privacy, peraltro spoilerato, ci costerà un po', ma... Adorabile, buonanotte eterna, mio signore. Come vanno le prenotazioni? Grumarg. Grumarg. Male. Come male? 2000 anni di propaganda paradisiaca non si eliminano così. Cioè? Ci vuole un greenwashing a un talk show. Bene, allora. Si va in scena. Ma attento agli inganni degli anchormen. Come? Io sono il re degli inganni. Benvenuti a Litighiamo. Dopo il break cercheremo di litigare con il diavolo in persona, che pensate un po', per le feste ha deciso di farsi buono. Dunque, perché il Natale è proprio l'inferno? È proprio da voi? Intanto perché la nostra è una società interamente black. Greenwashed. Questo non risulta dai tabulati delle ONG, eh? Sarà meglio che li cambino, allora, se non vogliono finire agli squali. Squalificati in termini di credibilità, che è una cosa in cui io modestamente credo tantissimo. Come pensate di fare con l'ingresso delle persone LGBT? LGBT? Ah, quelli! Quelli sono già tutti dentro. Ah, bene. Per quanto riguarda i rifiuti? Cioè? Dove avete intenzione di stoccarli? Ah, i gran rifiuti noi li teniamo tra gli ignavi, così noi differenziamo tutto, anzi tutto. Sì, sembra interessante. Devo dire che effettivamente il vostro è veramente un Natale imboicottabile e imbannabile. Sì, complimenti. Ve l'ho detto, siamo cambiati. Ma un'ultima cosa sul global warming. Cosa avrete intenzione di fare contro l'aumento delle nuove temperature? Come sarebbe a dire contro... Contro l'aumento delle temperature globali nell'ultimo secolo. E di quanto sarebbe aumentato? Addirittura fino a 2 gradi. 2 gradi? Massa di rammolliti! Vi lamentate di 2 gradi in più? Io nel buco in cui sono stato cacciato ho 400 di minima e non cala neanche a Natale! Vabbè, è per questo che non ci venite, eh? Allora vi dico una cosa, se non ci venite da vivi, ci finirete da morte tu per primo e non vi piacerà! Bruciate! Sono andato male, Grumarg. Beh, diciamo che nessuno vuole venire all'inferno, ma... Tutti vi vogliono in televisione! Avete spaccato! Ecco quanto potremo guadagnare con una sola ospitata alla settimana! No, basta, non mi interessa. Ho chiuso con quella roba. Peccato. Vi faccio preparare il trago alato? No. Oggi torturo qui, in Smart Worship. Mi sono portato un po' di lavoro a casa. Adorabile. Buonanotte eterna, miei signori. Sì, resta sempre un problema. Thank you very much. That was Balox, eh? Io ho rotto un braccio, io ho rotto un dito, io stavo lì a guardare la luna dentro l'occhio, mi è finito un dito, io ho vomitato, io anch'io, poi ho vomitato. E ci sono scivolato. Facciamo fila dal dottore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. Facciamo fila dal dottore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. Io c'ho la pelle, io c'ho la lebbra, io ho preso un dito nella presa e un dito nella pressa, io ho fatto botte, io sono caduto nella botte. Io avevo finito il vino. Facciamo fila dal dottore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. Facciamo fila dal dottore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. 2, 3, 4. Facciamo fila dal dottore. Ore, ore, ore, ore, ore. Facciamo fila dal dottore. Ore, ore, ore, ore, ore. Facciamo fila dal dottore. Ma la medicina è una. Io c'ho la lebbra, io c'ho la peste, io c'ho le malattie famose che si curano con l'aspirina. Io ho l'allergia, io allergico all'allergia. Io sono mica niente, ma quelli video si sono picchiato. Io sono malato, io sono guarito. Poi nel buttare nel bidone gli antibiotici sono scivolato. Io faccio ancora più schifo. Io non ci rendiro più un vaccino, sono venuto qua a fare fila dal dottore. Ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. A fare fila dal dottore. Ore, ore, ore, ore, ore, ore. Come on everybody, facciamo fila dal dottore. Ore, ore, ore, ore, ore, facciamo fila dal dottore. ore, ore, ore, ore, ore, facciamo un via da dottore, ma la medicina è una, solo una, solo una. Thank you, good night. La pausa che preannunciavamo, andate a divertirvi, ma per 10 minuti, perché poi dopo c'è un altro segmentino. Manuel Bongiorni in arte, musica per bambini. We'll be right back. Cioè, ci serve un presentatore, se qualcuno... Sì, tu vai bene. È bello. E chi l'avrebbe mai detto? Che groviglio di fili. Quanto vi serve a voi dietro? Quanto tempo vi serve a voi dietro? Siete prontissimi? Però così presentarsi da soli non c'è. No, è brutto, infatti. No, ma ci sta, hai fatto tutto da solo, sei timido. Hai ragione anch'io. Bene, signore e signori, spero che siate caldi, spero che abbiate fumato, bevuto, pisciato, perché qua il secondo tempo sta per ricominciare e con grande piacere andiamo un momento musicale come tutta la serata, si sta avvicinando Sanremo, quindi per voi qua dal vivo il maestro Manuel Bongiorni in arte musica per bambini e il compare Valerio Airo Rockelmeier eseguiranno per voi dal vivo Peter Panka. Signore e signori, musica per bambini presenta Marcate, ma marcate Trani che forte, guarda, guarda. Ma marcate la Silvia, metteteci uno alto sulla Silvia, non mi mica solito una. Marcate Mezzadra, guarda mister! Che lì è da solo, Mister, fammi entrare al posto di Mazzagatti. Mazzagatti? Mazzagatti. Non ti posso far entrare al posto di Mazzagatti. Perché? Ma Mazzagatti para anche le mosche. Mister, Mazzagatti para solo le mosche, ha già fatto passare 6 palloni. Ho capito, ma non ti posso far entrare al suo posto. Perché? È il figlio del sindaco. E allora? E allora dobbiamo giocare sul campo comunale anche l'anno prossimo, eh? Che l'anno scorso abbiamo giocato sul mio campo di patate, quest'anno mia moglie l'ha messa a carciofi, lascia perdere, dai, Peter. Poi te, è una questione tattica, senza le ali. Non ti posso far entrare. Mister! Oh! Fammi entrare al posto di Cavanna! Ti posso far entrare al posto di Cavanna! Perché? Ma va, Cavanna è il mastino della difesa! Ma che mastino, mister? Sta piangendo in braccio all'arbitro! Lo so, ho capito, ma è un momento difficile. Perché? E ieri gli ha cattato sul cane. No! Bobby, sì. No, il Bobby! Sì, poverino, sì, lascia stare, poi non ti posso far entrare al suo posto. Perché? Il figlio del vigile. Allora? E ci danno multa. Perché? E non vedi mica che abbiamo parcheggiato il pulmino per metà sulle strisce gialle e per metà sulle strisce rosa? In effetti sembriamo i disabili incinti. Sì, vabbè, lascia stare, dai. Te devi giocare centrale, per cui ti servono le ali. Te senza le ali non ti posso far entrare. Mister! Fammi entrare al posto di Borlenghi, allora! Non ti posso far entrare al posto di Borlenghi! Borlenghi è la diga della difesa! Ma che diga si fa ancora addosso? Guarda là, guarda là! Sto pisciando sulla bandierina! Oh, signor Borlenghi! Vieni via dalla bandierina che c'è il 9 libero in area! Borlenghi, vai a pisciare sul 9, no? Se sta, non ti posso far entrare al posto di Borlenghi. Perché? È il figlio del carrozziere. Allora? È il figlio del carrozziere. Ho capito. Quindi? Il figlio del carrozziere, no, domani deve andare dal carrozziere. Cosa hai fatto? Ha fatto un incidente. Che incidente? Peter, ho fatto un incidente. Ma dai. Che incidente? Ma l'ho cattato sul Bobby! No, hai cattato sul Bobby! Staci! Sì, ma si è fatto niente comunque. Non si è fatto niente, Cavanna sta piangendo. Piange per il mio paraurti, 300 euro di danni. Lascia stare, dai, Peter, poi te senza le ali, non puoi entrare. Mister! Oh! Ma metti al posto di Dosi! Dosi? Ma dosi, il motorino di centrocampo! Mister, il mio motorino fuma meno, Appena chiesto di accendere all'arbitro. Capito, non ti posso far entrare al suo posto. Perché? È figlio del giudice. Allora? Se io tiro fuori suo figlio, lui non tira fuori mio fratello. Capito? Te, poi comunque, non è una questione, te devi giocare... Ti siamo a te senza le ali, non ti posso far entrare! Mister! Oh, ehi! Fammi entrare al posto di Marchetti! Marchetti? Non posso far entrare al posto di Marchetti! Marchetti fantasia il potere! Marchetti risolve la partita in qualsiasi momento! Mister, siamo sotto di 8 gol, questa partita non la risolve nemmeno Einstein! Einstein dove gioca? Nello Schalke? No, Einstein, il fisico! Oh, vabbè, anche Marchetti che ha il fisico, che pensa quel gara? Dai, lascia stare, dai! Poi non ti posso far entrare al suo posto? Perché? Perché ti infiglio? Il figlio? Il figlio. Il figlio? Il figlio. È il figlio di puttana! Se quello da cui vado io! Pensa se si viene a sapere. Poi te comunque senza le ali non ti posso far entrare! Dai. Mister! Uomo, sa che? Fammi entrare al posto di Barilotti! Barilotti? Che cazzo di Barilotti? È uno delle giovanili! Ma non ti posso mettere al posto di Barilotti! Barilotti, Barilotti, che cosa che è a destra? Barilotti, no, aspetta, sai cosa ti metto? Ti metto al posto di Marenghi! Marenghi? Ma Marenghi è già in panchina. Appunto, vai al suo posto, almeno un po' più lontano, dai, va là, va al posto di Marenghi, dai, va al posto di Marenghi. Dai, va, vabbè, no, anzi, non c'è il buco al posto di Marenghi, ce lo faccio domani, stacchi mo, dai. Qua. Dai, comunque te, senza le ali, non ti posso far entrare, ho dimenticato qualcosa, no, mi ricordo. Mister! Mossa che ma mettere al posto di Villa! Villa, il bomber, ma va là, adesso fa gol! Ma che bomber non segna da 2 anni? Adesso lo fa, Ada Villa, ma... Vai Villa! E vai! Bravo! Bravo, ha segnato nella nostra porta però! Adesso è sbloccato! Non ti posso far entrare al suo posto? Perché? È il figlio del prete! E la Madonna! No, del prete basta! Se fosse il figlio della Madonna almeno facciamo qualche pareggio, dai, lascia stare. Lascia stare, dai. Mister! No, sai che? Dai, Peter! Stavolta non mi puoi dire di no! Ma mi stai al posto di Fava, dai! Ma Fava è in formissima! Ma si è appena rotto una gamba! Ma te sei morto, Peter. Siete tutti morti. Col pulmino, figa l'ultima di campionato, Beto. Io tanto se non me lo ricordo mica, capite? Guidavo io col pulmino lì. Poi sa te che quel giorno lì, tra l'altro, Peter, ti avevo addirittura messo in distinta, capito? Quel giorno lì, Peter, avresti giocato anche te. Pensa come eravamo messi male, Peter. In ogni modo, Peter, lascia stare, dai. Lascia stare perché... Perché... Ma smetti di parlare da solo in garage! Perché... Tutte le sere la stessa storia! E togliti quel cappellino, sono 10 anni che non le vedi più! Vabbè, arrivo! Perché te, dove sei te, io senza le ali non mi fanno entrare. Arrivo, detto! Oh, ragazzi! Ci vediamo domani, martedì. Solito ora per l'allenamento, eh. A Villa. Complimenti, eh. Bel gol. Ah, quasi dimenticavo. Grazie. Ma... Grazie in carenza vuol dire vai e compra tante cose nel merchandising. musica per bambini.